Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Impresa dell'Udinese che dopo aver sconfitto in rimonta il Parma per 2-3 ha conquistato con 10 punti la vetta solitaria della classifica di Serie A. Dopo 4 giornate non accadeva da 13 anni. Grande l'entusiasmo in città tra i club di tifosi bianconeri. Per il prolungamento della Cimpello Sequals è presentata la soluzione San Daniele che collegherebbe il tracciato attuale a Gemona passando per San Daniele, Maiano e Osoppo con la possibilità di decongestionare il traffico lungo l'attuale viabilità. Tra gli incontri della settimana europea delle mobilità che durerà fino al 27 settembre figura quello di oggi dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dal titolo Argonauti, un viaggio per la vita. Energia, trasporti, agricoltura, quanto il Friuli Venezia Giulia rispetta l'ambiente in questi settori? I dati dell'annuario statistico 2024 di recente pubblicato dalla regione mostrano un territorio green ma con luci e ombre. A Trieste è inaugurata una nuova residenza universitaria in via Gozzi. La struttura è intitolata Renzo Piccini, presidente della Fondazione CR Trieste dal 1994 al 2002. L'immobile è stato ristrutturato dalla fondazione che ne è proprietaria e verrà gestito come residenza universitaria da Ardis FVG. Nell'ambito degli incontri di Pordenone Legge e a Pordenone incontro con l'ARPA regionale sul legame tra l'ambiente e la letteratura. Guato, Cocal, Sardona, ma anche Cavaoci e Sturibù sono alcuni termini dialettali triestini relativi alla botanica e alla zoologia raccolti nel libro Piante e animali in dialetto triestino di Nereo Zepper. Le 12:31 minuti e 50 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beers e Dario Ronzoni che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 17 settembre. In apertura ancora l'impresa dell'Udinese dunque che dopo aver sconfitto ieri in rimonta il Parma per 2-3 ha conquistato con 10 punti la vetta solitaria della classifica di Serie A dopo 4 giornate di campionato. Non accadeva da 13 anni, grande l'entusiasmo in città tra i tifosi bianconeri che solo pochi mesi fa avevano visto la squadra salvarsi per il rotto della cuffia solo nell'ultima partita di campionato. Sentiamo allora la voce di Giuseppe Marcon, presidente dell'associazione Club Udinese, che racconta come i tifosi stanno vivendo queste ore. Rivivere situazioni di quel genere del 2011 proprio ti danno un entusiasmo, una voglia di continuare enorme, proprio senza dimenticarci, diciamo, la stagione passata, irta di difficoltà, però quest'anno si vedeva già dall'inizio che si voleva cambiare qualcosa. Io dico che magari un anno in 30 anni consecutivi di Serie A ci sta di poter toppare. Quest'anno però, ripeto, dall'inizio si vedeva proprio la voglia di tirare una linea e dimenticare la stagione passata per iniziare una stagione, diciamo, che ci sta regalando attualmente delle bellissime soddisfazioni. Si vedeva già dalla preparazione, dalle partite amichevoli, l'entusiasmo che c'era intorno a questa squadra ed anche la vicinanza della proprietà, che direi sia fondamentale per ottenere ottimi risultati. Siete partiti alle 12:30, tornati alle 3:30 di notte, state ancora sistemando un po' tutto quello che rimane dalla trasferta, dalle birre, ai bicchieri, ai tavoli. Com'è andata? Che sensazione avevate sul pullman e anche poi allo stadio? Beh, le sensazioni dall'inizio, dalla partenza, erano sicuramente di fiducia, no? Però sapevamo di andare incontro ad una partita difficile perché andavamo a affrontare una squadra che sicuramente era una delle squadre più in forma del campionato, però questo ti rende ancora di maggior spessore la vittoria ed il ritorno è stato entusiasmante proprio, c'erano dei cori in corriera, c'era la gente proprio, sembrava di rivivere i momenti magici degli anni passati quando si andava in Europa. Non pronunciamo questa parola perché non è giusto pronunciarla, però se questi sono i presupposti sicuramente ci attende un'annata ricca di soddisfazioni. Fagagna, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri l'assessore regionale alle infrastrutture Amirante, intervenendo a un incontro a Gemona sul prolungamento della Cimpello Sequals, ha presentato la soluzione San Daniele, che collegherebbe il tracciato attuale a Gemona passando per San Daniele, Maiano e Osoppo, che vedono così la possibilità di decongestionare il traffico lungo l'attuale viabilità. La regione va avanti sul secondo studio per esplorare un nuovo possibile tracciato di collegamento tra Sequals e Gemona nella parte che va da Dignano verso est, quella che nel primo studio di fattibilità aveva creato malumori da parte del territorio per il passaggio nella zona collinare morenica. Ci sono state raccolte firme, assemblee dei cittadini, in particolare a Fagagna, Moruzzo e Pagnacco. L'assessore alle infrastrutture, Cristina Mirante, ha incontrato a Gemona i sindaci e rappresentanti delle categorie economiche che spingono per superare lo status quo. Con loro ha concordato la ricerca di una soluzione collocata più a nord, con l'attraversamento dei territori di San Daniele, Maiano e Osoppo, comuni che per il peso delle loro attività economiche hanno interesse a vedere sviluppata una nuova viabilità anche per decongestionare quella esistente. Non si esclude la possibilità della doppia corsia, resta viva infatti l'opzione di una tangenziale o di un'autostrada. Molto dipende dallo studio che sarà commissionato entro l'anno per un importo di 10 milioni stanziati nella manovra di bilancio estiva. Quel lavoro indicherà le soluzioni tecniche realizzabili e una stima dei costi e valuterà pro e contro di ogni ipotesi. Spetterà poi alla politica prendere una decisione. Uno degli aspetti da considerare è l'impatto sul traffico della nuova pedemontana veneta, l'autostrada che collega il Trevigiano con il Vicentino. Recentemente i passaggi dei mezzi pesanti sono in crescita sia sulla A4 sia sulla Pontebbana, già piuttosto satura. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: la notte scorsa, mezz'ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste per l'incendio del semirimorchio di un auto articolato. Nessuna persona è rimasta ferita, l'autista stava percorrendo l'autostrada quando si è accorto delle fiamme attraverso gli specchietti retrovisori ed è riuscito a fermarsi in tempo e a sganciare la motrice dell'auto articolato. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da San Donà, Motta di Livenza e Porto Gruaro con 3 autopompe, 2 autobotti e 15 operatori hanno spento l'incendio del semirimorchio già completamente avvolto dalle fiamme all'arrivo dei soccorsi. Sul posto il personale autostradale Alto Adriatico e la polizia stradale. Il semirimorchio era carico di materiale per uso elettrico. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Al fine di evitare situazioni di abusivismo e illegalità nel settore turistico, il nucleo di polizia commerciale di Trieste ha effettuato negli ultimi tempi numerosi controlli. Per quanto concerne le attività di noleggio con il conducente, attirate dal flusso di turisti, grazie anche all'attracco delle navi da crociera, è stata riscontrata un'attività irregolare svolta utilizzando come paravento un'associazione di promozione sociale cancellata dal registro unico del terzo settore. Inoltre, a seguito di una segnalazione, è stata scoperta un'agenzia di viaggi abusiva che forniva pacchetti turistici su internet senza alcun tipo di autorizzazione. Altri controlli hanno riguardato le strutture ricettive presenti sul territorio comunale, come case vacanza, bed and breakfast, affittacamere e locazioni brevi. Su 45 controlli effettuati sono state accertate 8 violazioni per irregolarità in strutture che superavano la capacità ricettiva dichiarata, con spazi angusti e non corrispondenti a quanto pubblicizzato, che non versavano la tassa di soggiorno o del tutto abusive. Tra gli incontri della settimana europea della mobilità, che durerà fino al 27 settembre, figura quello di oggi, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, dal titolo Argonauti, un viaggio per la vita, ospitato a Trieste in Porto Vecchio, che racconta le vite e le idee di 12 importanti triestini, ma sono diversi e autorevoli gli ospiti e i relatori previsti nel corso delle giornate. Muoversi non solo nello spazio, la mobilità del pensiero vuol dire creatività, evoluzione, cambiamento. L'evento ha voluto lasciare spunti di riflessione, degli appigli sui quali poter evolvere nuovi interessi o idee. A seminarle in un viaggio di 7 racconti, 12 relatori o argonauti che hanno condiviso con oltre 200 studenti la propria storia. Michele Babuder, assessore di politiche del territorio. Con i giovani riusciamo ad affrontare quelle sfide che tutte le città stanno vivendo e soprattutto anche quei cambiamenti di mentalità nell'utilizzo ad esempio delle piste ciclabili, della bicicletta e di altri sistemi di mobilità che ovviamente ormai sono non più all'avanguardia e miti, ma sono la realtà quotidiana. Vittoria Girardi, ufficio scolastico regionale. I relatori spesso e volentieri arrivano anche dal mondo della scuola, conoscono la scuola, vanno nelle scuole e di conseguenza hanno anche quella abilità di riuscire a convincere i ragazzi, far ragionare e riflettere i ragazzi su quelle che sono le offerte che in giornate come queste vengono date. Tra questi anche Gianluigi Rozza, matematico della Sissa, che ha spiegato come nascono i gemelli digitali, rappresentazioni virtuali di entità fisiche che aiutano i matematici a interpretare, conoscere e prevedere i sistemi complessi reali. Trasferitosi a Trieste, 12 anni fa, ha vissuto l'evoluzione della città. Gianluigi Rozza, professore dell'area matematica della SISSA. Questi cambiamenti erano nell'area da molti anni, quindi sono cambiamenti che sono stati progettati, sono stati pensati prima di farli, e sicuramente mi aspetto un grande cambiamento in quello che è il biglietto da visita in arrivo in città, intendo tutta questa zona dove ci troviamo adesso, il Porto Vecchio, i nuovi poli museali e soprattutto la zona anche intorno alla stazione. Si è parlato anche di come nascono le idee del trasporto del futuro. Tommaso Gechellin, fisico e designer, ha raccontato come è nato il progetto dei veicoli modulari del Next Future Transportation a Dubai. I giovani saranno ancora al centro del programma della Settimana Europea della Mobilità Triestina il 24 e 25 settembre presso il nuovo polo sportivo Trieste Campus. Due giorni di Open Day per le scuole e i ricercatori. Trieste, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora diamo uno sguardo al tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, più coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 17 gradi, soffia vento da est e nord-est, bora a 57 km all'ora, mare mosso con temperature di 23 gradi. A Udine sono 20 gradi, a Gorizia e Pordenone 19, a Tolmezzo 13, a Trevisio 9, Forlì di Sopra 11, Piancavallo 10, Sappada 7 gradi. In montagna sullo Zoncolan 5 gradi e su Lussari 2. Sulla costa a Lignano 19 gradi e a Grado 18 gradi. La temperatura del mare in entrambe le località è di 23 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA regionale. Nel pomeriggio avremo cielo in genere variabile. Soffierà bora moderata sulla pianura, sostenuta sulla costa e sulla fascia orientale. Anche forte sul Carso e a Trieste. Anche in quota soffierà vento sostenuto da nord-est. Domani al mattino cielo poco nuvoloso. Poi, nel corso della giornata, nuvolosità in aumento. Soffierà bora moderata sulla costa, anche sostenuta sul Carso e a Trieste. Temperature massime in aumento. Energia, trasporti e agricoltura. Quanto il Friuli Venezia Giulia rispetta l'ambiente in questi settori? I dati dell'annuario statistico 2024, di recente pubblicato dalla Regione, mostrano un territorio green, ma con luci e ombre. Il 2023 è stato l'anno della passione per il fotovoltaico in Friuli Venezia Giulia. Il numero di impianti è cresciuto del 25,1%, lo certifica l'ultimo annuario statistico della regione. Allo stesso tempo però cresce del 16,1% anche il totale dei consumi di benzina della rete ordinaria e autostradale. D'altra parte, in Friuli Venezia Giulia si utilizza più che nel resto d'Italia il mezzo di trasporto per andare al lavoro. Solo il 9,7% va al lavoro a piedi contro l'11,8% italiano. Il mezzo più utilizzato è l'auto in qualità di guidatore, seguito dall'auto come passeggero, dal tram o bus e dalla moto o scooter. Il lato positivo è che in regione si impiega meno tempo per andare al lavoro. Il 44,5% degli occupati ci mette meno di 15 minuti contro il 36,5% in Italia, mentre solo il 12,1% impiega più di mezz'ora contro il 15,3% a livello nazionale. Riguardo invece lo stato dell'agricoltura, la regione non si colloca molto bene in Italia per incidenza della superficie agricola biologica. Questa occupa il 9,6% del territorio agricolo contro il 19,8% del dato italiano. Le aziende che operano nel biologico sono il 5,7%, il 7,4% a livello nazionale. Nonostante gli effetti dei cambiamenti climatici siano stati visibili nell'ultimo anno, i cittadini del Friuli Venezia Giulia risultano infine meno preoccupati della media nazionale per i problemi ambientali come l'inquinamento delle acque o l'effetto serra. Spaventa meno che altrove anche il dissesto idrogeologico. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La struttura semplice Stroke Unit dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina si è classificata come centro platino nell'ambito del programma europeo Stroke Organization Awards. Lo rende noto la SUGI, spiegando che il riconoscimento premia le migliori strutture italiane ed europee che si impegnano a garantire l'eccellenza nel trattamento dell'ictus. La Stroke Unit di SUGI, prosegue la nota, si è organizzata in maniera tale da consentire l'avvio del trattamento trombolitico nella maggior parte dei pazienti con ictus provenienti da tutto il territorio giuliano-isontino entro un'ora dall'arrivo in pronto soccorso, nonché l'esecuzione della trombectomia. Anche il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia aderisce oggi alla giornata giornata dedicata alla sicurezza delle cure, richiamandola attraverso l'illuminazione del palazzo di Piazza Oberdan a Trieste con una luce arancione. Per la giornata del 2024 la World Health Organization ha scelto il tema del miglioramento dei processi diagnostici, ha ricordato il presidente dell'Assemblea Bourdin, un ulteriore stimolo per le istituzioni impegnate costantemente a monitorare la qualità delle cure e aggiornare i propri servizi in un comparto strategico e delicatissimo come quello della salute. A Trieste è inaugurata una nuova residenza universitaria in via Gozzi. La struttura è intitolata Renzo Piccini, presidente della Fondazione CR Trieste dal 1994 al 2002. L'immobile è stato ristrutturato dalla Fondazione, che ne è proprietaria, e verrà gestito come residenza universitaria da Ardis FVG. Saranno i dottorandi e i ricercatori gli inquilini della nuova residenza universitaria in via Gozzi a Trieste, che sorge al fianco della Casa dello Studente, che già offre un centinaio di posti letto. Due strutture gestite dall'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, l'ARDIS, che amplia così l'offerta residenziale per studenti fuori sede grazie all'investimento di 2,5 milioni di euro della Fondazione CR Trieste, che ha voluto intitolare la struttura di sua proprietà a Renzo Piccini, scomparso nel 2015, per lunghi anni presidente della Fondazione e che per l'Università di Trieste ci è anche passato laureandosi in economia. Emozionatissima la moglie che ha inaugurato la residenza insieme al presidente della Fondazione Massimo Paniccia. Questo è il secondo intervento dopo l'ospedale militare di riqualificazione. Ritengo che riqualificare sia la cultura dei popoli, ma soprattutto questa è anche un'emozione perché riporta qua anche il nome del già presidente della Fondazione Renzo Piccini, un grande amico e grande personaggio per la nostra Trieste, che rimane nella storia dei ragazzi che faranno lo studentato universitario e che potranno pensare loro imparando a diventare il futuro anche della nostra città. Salgono a 514 posti letto offerti dall'ARDIS, che in sinergia con l'assessorato regionale, che quest'anno ha stanziato 50 milioni di euro per la residenzialità universitaria, sta lavorando per ampliare l'offerta agli studenti fuori sede. Il direttore generale dell'ARDIS, Pierpaolo Olla. Daremo una risposta a un target che è un po' nuovo per l'Agenzia Regionale del Diritto allo Studio. Abbiamo già in atto delle convenzioni con il MIB, con l'OGS, insomma con tutte queste realtà dell'eccellenza post-universitaria che esprimono uno specifico bisogno di una residenza e di uno spazio dove risiedere qui nel territorio triestino. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. Si intitola Tutta colpa di Gorbaciov, l'appuntamento in programma a Trieste che indaga l'eredità di uno dei personaggi storici più decisivi della fine del Novecento, in particolare alla luce dei recenti conflitti in atto. Alle 18 alla libreria Ubik in Galleria Tergesteo. A discuterne ci saranno Pierluigi Franco, autore del libro Gorbaciov, il furbo ingenuo, insieme al docente di storia contemporanea all'Università di Firenze Marco Bresciani e al giornalista Walter Scherk. A Pierluigi Franco abbiamo chiesto come si può definire l'eredità di Gorbaciov oggi. Gorbaciov ha rivoluzionato assolutamente l'assetto mondiale, ha cambiato completamente le carte in tavola e ha modificato gli equilibri, per cui l'eredità è sicuramente forte. Se non ci fosse stata, se fosse stato il periodo di Gorbaciov, Putin probabilmente non sarebbe neanche emerso e non si sarebbero, a mio modo di vedere, sviluppati tutti quanti i nazionalismi e i contrasti che purtroppo stanno caratterizzando questo momento. Chiaramente Gorbaciov aveva delle intenzioni positive nel suo portare avanti la politica, non credo assolutamente in quelli che pensano che potesse essere malintenzionato. Probabilmente è mancata una capacità politica di riuscire a gestire questi cambiamenti. Quindi si può dire che la sua eredità ha avuto anche dei risvolti negativi in questo senso? Su questo chiaramente ci si augura che ci possa essere un dibattito storico, perché comunque è importante. È chiaro che ci sono persone che ritengono che il periodo di Gorbaciov sia stato un periodo assolutamente negativo per l'equilibrio mondiale e chi invece sostiene che comunque lui abbia creato le basi di nuovi sviluppi democratici. Questo chiaramente è motivo di dibattito, ma è molto difficile dimostrare che si sia sviluppata la democrazia grazie al periodo di Gorbaciov, secondo me. Anche perché in Russia la democrazia che si è sviluppata o che si sta sviluppando, che si sarebbe dovuto sviluppare, sembra comunque in difficoltà. Ma Questo è valido appunto per la Russia, che comunque storicamente non ha mai conosciuto periodi di grande democrazia. Diciamo che la Russia è un qualcosa di diverso da tutti quanti gli altri contesti, proprio per un processo storico, per un modo di pensare, per un modo di vedere, per un modo di sviluppare il proprio destino politico. Ma questo vale anche per tutti i paesi che facevano parte della vecchia Unione Sovietica, non solamente per la Russia, cioè democrazia in senso come la intendiamo noi occidentali non c'è da nessuna parte, Ucraina compresa. Nell'ambito degli incontri di Pordenone Legge, a Pordenone questa mattina un incontro stampa con l'ARPA regionale sul legame tra ambiente e letteratura, presenti l'assessore all'ambiente del comune di Pordenone Mattia Tirelli, l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro e la direttrice di Pordenone Legge Michela Zin. Ambiente e letteratura. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia celebra il legame tra questi due mondi in occasione di Pordenone Legge nell'ambito del calendario di appuntamenti per i 25 anni di attività di ARPA. Anna Lutman è direttrice generale di ARPA. Ci occupiamo di cultura ambientale da quando siamo nati, quest'anno facciamo 25 anni, quindi siamo anche in questo percorso. Festeggeremo Pordenone Legge oltre che 25 anni, anche presentiamo la giornata della trasparenza. L'agenzia esce dai propri uffici, esce dal proprio laboratorio, sta in piazza nei propri territori. Pordenone è un territorio importante, un territorio che seguiamo da quando siamo nati con il nostro dipartimento di Pordenone, e quindi ci sembra giusto essere qua a presentare tutte le nostre attività di monitoraggio, di ispezione, di educazione ambientale, tutto quello che noi quotidianamente facciamo per far vedere come sta il nostro ambiente e per capire quello che l'agenzia fa, quale valore pubblico proprio dell'agenzia, dei nostri operatori che quotidianamente stanno proprio sul territorio a servizio di tutti. L'agenzia regionale accoglierà il pubblico nel suo stand antistante Palazzo Badini, nel quale sarà allestito un percorso che racconta com'è cambiata la sensibilità nei confronti dell'ambiente nel tempo. In biblioteca civica saranno poi organizzati incontri di educazione ambientale per le scuole e allo spazio Gabelli la presentazione del libro Sulle Alpi, un viaggio sentimentale di Daniele Zovi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Torniamo allo sport parlando della cerimonia con cui la regione ieri a Trieste ha ringraziato le atlete e gli atleti, i protagonisti delle recenti spedizioni olimpiche e paralimpiche di Parigi. Tra le campionesse premiate le due medaglie d'oro friulane, Mara Navarria e Giada Rossi, sentiamole nell'ordine. Io personalmente ho una consapevolezza di tutto il mio percorso fatto e sto anche un attimo fermando un po' di frame della mia vita, di tutte le persone che hanno fatto questo lungo viaggio con me, visto che per me questa è la mia ultima gara internazionale, e devo dire che visto di persone ce ne sono state tante e ho avuto anche un grandissimo affetto una volta arrivata qua a casa, nella mia regione, e poi tuttora lo sento ancora, sento tante persone ancora molto vicine per la nostra avventura e per il nostro storico oro a squadre. Sicuramente sono ancora molto presa, però tutte queste belle riconoscimenti, belle manifestazioni ti fanno pian piano realizzare quello che è veramente successo, e sono molto contenta di essere qui oggi, perché poi ricevere riconoscimento della propria terra è sempre il riconoscimento più bello ed entusiasmante, e però fatico ancora a credere a quello che veramente è successo più o meno 10 giorni fa. Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Guato, Cocal, Sardone, ma anche Cavaoci e Sturibu sono alcuni termini dialettali triestini relativi alla botanica e alla zoologia raccolti nel libro Piante e animali in dialetto triestino di Nereo Zeper, che viene presentato a Trieste al Circo della Stampa oggi alle 17.30. Abbiamo sentito Zeper e gli abbiamo chiesto perché ha scelto di indagare proprio il campo degli animali e delle piante. È uno dei campi che osserva più perdite, in sostanza. I termini sono più desueti, ecco, quelli che io ho raccolto, perché la commercializzazione, soprattutto degli ortaggi e degli animali, e la conoscenza degli animali è quella che più si è perduta, in sostanza. Quindi insieme alla lingua è andata via anche una conoscenza culturale, diciamo. Sì, perché il libro si divide in piante, e poi per quanto riguarda animali sono gli insetti, i pesci, gli uccelli e poi gli altri animali, mammiferi, eccetera, eccetera. Ora, per quello che riguarda soprattutto gli uccelli, per esempio, con l'abolizione dell'uccellagione si è persa anche tutta la conoscenza dei nomi degli animali. E la stessa cosa vale anche per i pesci. pescatori a Trieste, triestini, sono stati in parte soppiantati da istriani e da campani, e quindi molti dei termini locali, patocchi, sono stati sostituiti o dai termini istroveneti o addirittura del termine commerciale che si usa nelle pescherie di tutta Italia. Ci può fare qualche esempio di queste parole perdute? Andiamo nel campo dei pesci. La tartaruga marina, chiamata oggi normalmente tartaruga, ha un curioso nome di origine friulana, Magna Capassa. Magna Capassa. Questo qui è completamente dimenticato, questo termine, che deriva dal friulano Magne Copasse, cioè serpente, perché serpente si dice Magne in friulano, Copasse, cioè una copaccia, con riferimento al carapace. Alcuni appuntamenti in regione. Si conclude con il suo quarto concerto il programma ufficiale dell'Easy Day, l'Interreg Cooperation Day di quest'anno. Dopo aver fatto tappa a Pirano, a Moggio Udinese e a Venezia, la Cross Border Youth Orchestra, formata da 20 musicisti under 30 provenienti da Italia, Slovenia, Croazia, Serbia e Montenegro, si esibirà stasera in concerto a Trieste con musiche tra gli altri di Naumann, Dall'Oglio e Tartini, alle 17.30 in Sala Tartini. Tornano da oggi fino al 26 settembre i percorsi performativi dal titolo In cerca di Zeno per le strade di Trieste, che attraversano il centro della città parlando del capolavoro di Italo Svevo. L'iniziativa nasce dalla collaborazione del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste insieme al Teatro Stabile, con tre attori che collaborano alla messa in scena. La passeggiata partirà dal Teatro Verdi alle 18 tutti i giorni feriali o alle 11 il sabato e la domenica. La danza, appuntamento stasera con il flamenco nell'ambito del Festival di Trieste, il faro della musica della Società dei Concerti. I protagonisti, il musicista pluripremiato Alex Trolese, insieme alla bailaora Marta Roverato, con musiche di Ravel, Albéniz, Monpou e De Fall. Inizio alle 20.30 nella Sala Luttazzi del Porto Vecchio. A Duino Aurisina sarà inaugurata la mostra collettiva dal titolo Natura, terzo appuntamento dopo la corsa e la conferenza tematica per la settimana della mobilità sostenibile. 10 artisti esporranno opere legate al tema dell'ambiente e del rispetto della natura. Appuntamento alle 18 nello spazio Cultura di Borgo San Mauro. A Trieste parte oggi la serie di tre incontri pomeridiani di presentazione di volumi d'arte creati da storici dell'arte e professionisti nell'ambito museale della regione. Primo appuntamento con il catalogo della mostra Italia 60, dal boom al pop, in corso a Gorizia, curato da Carla Cerutti, Lorenzo Michelli, Enrico Migno Capucci e Raffaella Sgubin, al Museo Revoltella, alle 17.30. Prima di chiudere, una notizia di servizio. FVG Strade informa che oggi e domani, dalle 8.30 alle 17, a causa di lavori urgenti per il ripristino funzionale e la mitigazione del rischio idrogeologico, è prevista la chiusura totale della circolazione di veicoli e pedoni lungo la statale 52 Carnica, tra i comuni di Forni di Sotto e Forni di Sopra, in entrambi i sensi di marcia. Saranno anche previste, prima della chiusura, una limitazione di velocità a 50 km all'ora, una successiva a 30 km all'ora, nonché il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. E alle 12.57 minuti si chiude così la seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giorgio Beaz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Samuel Montalto e di Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.